Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La procura, che ha fatto un ottimo lavoro, ha notificato un provvedimento di sequestro per l'immobile di via Napoleone III, quello occupato ormai da oltre 18 anni da Casa Pound, e quindi anche lì si va a ristabilire la legalità. Così ha parlato oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la sindaca di Roma Raggi a proposito della notifica della procura di Roma al provvedimento di sequestro per l'immobile di via Napoleone III, appunto nella capitale, occupato da oltre 18 anni dall'associazione, dal movimento di estrema destra Casa Pound. E quindi, dice la sindaca Raggi, anche lì si va a ristabilire la legalità. È ricordato poi anche tutti i sequestri dei vari villini della famiglia Casamonica, storica famiglia della criminalità romana, insomma di varie azioni piuttosto coraggiose che ha fatto la sindaca Raggi. In effetti poi anche oggi sono arrivate pesanti minacce. Parleremo di molte cose oggi, torneremo nuovamente sul piano di rinascita che ha annunciato ieri il presidente del Consiglio Conte, le misure che sta mettendo in atto l'Unione Europea e oggi in particolare la Banca Centrale Europea, e poi ci occuperemo anche delle difficoltà dei sindaci che dicono che si sentono abbandonati in questo momento di inizio delle vacanze e quindi di villeggiatura in spiaggia da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, perché ha dettato appunto le regole che devono essere mantenute e rispettate quando si va al mare, quando si va in spiaggia. Però tutto questo, dicono i sindaci, a carico nostro, che non abbiamo neanche le risorse per assicurare i beni essenziali. Ne parleremo col presidente dei sindaci, che è Antonio De Caro. E poi invece una bella iniziativa che arriva dall'Emilia Romagna per quanto riguarda medici e infermieri che sono arrivati nella regione volontari per combattere il coronavirus. Ci collegheremo naturalmente con gli Stati Uniti, dove oggi si sono celebrati i funerali dell'afroamericano ucciso dai poliziotti, George Floyd, funerali che vengono trasmessi praticamente in tutte le TV americane. Leggevo poco fa un aggiornamento dell'ANSA. Quindi allacciate le cinture che stiamo per partire. Vi ricordo, per i vostri commenti e riflessioni, c'è sempre pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi, oppure i WhatsApp al 349-238-6666. I dati sul coronavirus in Italia: sono 88 le vittime in un giorno, al minimo i nuovi positivi, nelle ultime 24 ore solo 177 contagi. La crisi economica che porta indietro la crescita al 2000, dice Conte, e sottolinea è necessario uno sforzo corale. Le mosse dell'Unione Europea: la Banca Centrale rilancia gli acquisti del debito, 1.350 miliardi il piano totale. Scuola: la ministra Azzolina al tavolo per la riapertura a settembre, dice l'obiettivo è riaprire tutti in presenza. Le regole per le vacanze in spiaggia: i sindaci si sentono abbandonati dall'Istituto Superiore di Sanità e sovraccaricati di responsabilità. Effetto Notte sarà ospite il sindaco di Bari, presidente dell'ANCI De Caro. Stati Uniti: in migliaia a Minneapolis ai funerali di George Floyd. Partiamo quindi, come sempre, dai dati sul coronavirus in Italia, che per fortuna sono sempre di giorno in giorno migliori. Scendono a quota 38.429 gli attualmente contagiati da coronavirus, dal totale, quindi si riducono anche i nuovi positivi, che sono 177 nelle ultime 24 ore. Questo è quanto emerge dal bollettino odierno della Protezione Civile, secondo cui i nuovi contagiati sono per metà concentrati in Lombardia, 84, in leggera ripresa i decessi, 88, più 17 rispetto ieri, mentre continua l'alleggerimento negli ospedali con 239 pazienti con sintomi dimessi dai reparti e 15 dimessi dalle terapie intensive su un totale di 338. Complessivamente i guariti sono nelle ultime ore 927, quindi un totale dall'inizio di 161.895. E c'è il rapporto ISTAT-ISSE, il rapporto ISTAT dell'Istituto Superiore di Sanità, che dice che questa, la nostra, è un'Italia a tre velocità, quella attraversata dall'epidemia di Covid-19, con una diffusione molto contenuta nelle regioni del sud e nelle isole, mediamente più elevata in quelle del centro rispetto al mezzogiorno e molto elevata nelle regioni del nord. Questo è il ritratto del paese che emerge dal secondo rapporto di ISTAT, Istituto Superiore di Sanità, sulla mortalità per nuovo coronavirus. Cose che già a grandi linee sapevamo, ma questa è la certificazione, insomma, questo secondo rapporto ISTAT-IS. Tutto questo ha portato, come sapete, a una grave crisi economica. È necessario uno sforzo corale, dice il presidente del Consiglio Conte. Questa crisi riporta la crescita italiana indietro fino al 2000. La sfida più ardua ora sarà quella per la ripartenza del paese. Il Premier Conte guarda alla fase 3 e avverte che tutto non potrà esaurirsi in un ritorno alla normalità precedente, perché la pandemia riporterà il nostro PIL indietro di 20 anni. Abbiamo quindi il dovere, tutti insieme, di uno sforzo corale per recuperare questo ventennio perduto, per ricostruire uno sviluppo basato sulla coesione sociale, sulla sostenibilità, sull'innovazione tecnologica, su una vera e propria rivoluzione delle competenze. Taglio della burocrazia, digitalizzazione, infrastrutture, riforma del fisco, incentivi per i pagamenti elettronici, tempi più stretti per la giustizia civile e penale sono alcune delle priorità elencate da Conte, che saranno discusse con parti sociali e opposizioni negli Stati Generali dell'Economia, in programma la prossima settimana. Attorno al piano di Conte si ricompatta la maggioranza. Non ci sono cambi di governo all'orizzonte, assicura il leader di Italia Viva Renzi. Le opposizioni restano invece scettiche, staremo a vedere, dice il segretario leghista Salvini, che rilancia su flat tax e burocrazia zero. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi le parole del ministro dell'economia Gualtieri, che ha detto: è dovere di un grande paese discutere su alcuni elementi comuni, noi dobbiamo avere disponibilità all'ascolto, apprezzare chi fa passi in avanti come nel decreto liquidità, parole appunto del ministro che in audizione in commissione banche ha fatto il punto sullo strumento della moratoria e della garanzia statale, riconoscendo la lentezza di alcuni istituti bancari. Il finanziamento assistito da garanzia statale ha richiesto anche più tempo per essere impostato ed integrato nei processi operativi e tecnologici delle banche, anche se ci sono stati istituti più rapidi ed efficienti di altri, così come ci sono stati numerosi casi di malfunzionamento, di criticità, che vanno individuati, risolti e monitorati. A proposito di liquidità e aziende, il Senato ha approvato il decreto legge imprese con le misure per garantire la vita del sistema produttivo. Senatori favorevoli 156, senatori contrari 119. Il Senato approva. Dopo la fiducia posta dal governo, il Senato approva il decreto legge imprese. Tra le misure, l'autocertificazione, l'incremento da 25 a 30 mila euro per i prestiti garantiti al 100% da restituire in 10 anni, 30 per i prestiti fino a 800 mila euro. Al momento, secondo l'ABI, sono quasi 500 mila le domande inviate dalle banche al fondo di garanzia, il 90% fino a 25 mila euro. A SACE, per le aziende sotto gli 1,5 miliardi di fatturato risultano 47 domande con garanzia emesse in 48 ore. In corso di approvazione la garanzia sul prestito da 6 miliardi per FCA, spiega l'ADI di SACE Pierfrancesco Latini. Dall'esame dell'operazione emerge una piena conformità della struttura dell'operazione ai termini del decreto. Tra gli impegni di Fiat Chrysler, investimenti aggiuntivi in Italia per 5 miliardi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E l'importo del reddito di emergenza previsto dal decreto rilancio per le famiglie che non hanno usufruito di altre indennità Covid e che non hanno componenti con un reddito da lavoro o da pensione potrà arrivare fino a 840 euro al mese per 2 mesi nel caso in cui il nucleo sia composto da 2 adulti, 2 minorenni e un componente sia in una situazione di disabilità. Altrimenti il limite massimo del reddito di emergenza per una famiglia di almeno 4 persone sarà di 800 euro, lo si legge nella circolare dell'INPS che chiarisce i requisiti della misura. A proposito di misure, le misure economiche dell'Unione Europea, la Banca Centrale Europea rilancia gli acquisti di debito per l'emergenza pandemica. Francoforte aumenta di 600 miliardi di euro il PEP, questo programma, portando il totale a 1.350 miliardi di euro, e lascia invariati i tassi di interesse. Il tasso principale rimane fermo a zero, il tasso sui depositi resta a meno 0,50%. L'orizzonte temporale in cui la Banca Centrale condurrà gli acquisti di titoli per l'emergenza pandemica sarà esteso almeno fino a fine giugno 2021, dall'attuale scadenza del dicembre 2020. E torneremo tra poco a parlare anche di questo per spiegare meglio. Siamo adesso alla scuola con la ministra Azzolina, che è presente al tavolo per la riapertura a settembre. Dice l'obiettivo è riaprire tutti in presenza, e poi ci sarà modo tra poco di capire se ci sono degli aggiornamenti da questo tavolo. Obiettivo raggiunto e superato, parliamo di vaccini. Il summit globale promosso dal Regno Unito a favore dell'alleanza Gavi sui vaccini ha raccolto altri 8,8 miliardi di dollari contro i 7,4 programmati per le vaccinazioni nel mondo, somma da cui verranno stanziati 2 miliardi destinati alla ricerca e alla produzione di un vaccino contro il coronavirus, come ha spiegato Boris Johnson in chiusura di un incontro svoltosi oggi in forma virtuale a cui hanno partecipato 50 paesi, organismi internazionali e donatori privati. Estero, nelle prossime ore il Brasile potrebbe superare l'Italia per numero di decessi causati dal coronavirus se dovesse mantenere la curva di crescita dei casi che ieri ha fatto registrare altre 1.349 vittime. Il gigante sudamericano, con 32.548 morti complessivi, è il quarto paese nel mondo per un numero di vittime, dietro solo a Stati Uniti, Regno Unito e Italia. E secondo scienziati indiani, il coronavirus potrebbe essere entrato in India già dall'inizio del novembre del 2019. Lo scrive il Times of India. Il quotidiano riporta le ricerche di un gruppo di studiosi del Consiglio della Ricerca Scientifica e Industriale che, utilizzando un metodo particolare sull'epoca stimata del più recente progenitore comune, valutano che il ceppo del virus attualmente in circolazione nello stato del Telangana risalirebbe al periodo tra il 25 novembre e il 25 dicembre. E poi Hong Kong. Migliaia di candele hanno illuminato la sera di Hong Kong per ricordare la repressione di piazza Tiananmen del 4 giugno del 1989 e le vittime delle proteste pro-democrazia stroncate dalle truppe dell'esercito di liberazione popolare nel sangue. Malgrado i divieti, le candele sono state accese ovunque nella città, dai centri commerciali alle chiese. Intanto il Parlamento di Hong Kong ha dato il via libera alla contestata legge che criminalizza ogni forma di disprezzo verso l'inno nazionale cinese, la marcia dei volontari. Aggiornamenti non buoni sulla vicenda di Zaki, altri 15 giorni di detenzione per Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere in Egitto da inizio febbraio e prossima udienza prevista per il 16 giugno. Questo è l'esito dell'ultima udienza che era fissata il 1 giugno, appreso oggi dagli attivisti che si battono per la causa del ricercatore. Il rinnovo di custodia per altri 15 giorni, scrivono su Facebook, è avvenuto senza la presenza né di Patrick né dei suoi avvocati. Di nuovo in Italia con la cronaca, al termine di un'indagine Digos, la Procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal GIP il sequestro preventivo dell'immobile in via Napoleone III, sede del movimento Casa Pound, associazione a delinquere finalizzata all'istigazione all'odio razziale e occupazione abusiva di immobile, sono i reati contestati dalla Procura. E la sindaca Raggi che ha commentato un momento storico, una vittoria per la città. A Verona anche l'ex sindaco Flavio Tosi è tra gli indagati dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, che ha portato a 26 misure cautelari a carico di un'associazione criminale riconducibile alla cosca dell'Andrangheta degli Arena Nicosia. L'Andrangheta scoperta a Verona si alimentava dei flussi di denaro sporco proveniente dalla cosca Arena Nicoscia di Isola Caporizzuto, Crotone, soldi riciclati in imprese edili, usura, corruzione. L'inchiesta condotta dalla polizia e coordinata dai magistrati antimafia di Venezia ha portato a 26 misure cautelari, 17 in carcere, con accuse di associazione mafiosa, truffa, riciclaggio, estorsione, traffico di droga, corruzione, turbativa d'asta, fatture false, sequestrati beni per 15 milioni. Tra le imprese infiltrate, spiega il procuratore di Venezia Bruno Cherchi, la municipalizzata rifiuti di Verona. La società gestisce dei corsi di formazione, c'è stato un inserimento di questa cosca ndranghettista che si è accaparrata del denaro pubblico. Ai domiciliari è finito l'ex presidente Andrea Miglioranzi e tra gli indagati c'è l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, accusato di peculato per aver beneficiato di un pagamento di 5.000 euro a suo favore da parte dell'AMIA a un'agenzia di investigazione privata. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo adesso di fumo di cannabis che crea danni polmonari simili a quelli provocati dal tabacco, ma in un tempo decisamente inferiore. Quanto emerge dallo studio condotto dall'Università di Modena e Reggio Emilia col gruppo di Alessandro Stefani e dall'azienda ospedaliera universitaria di Modena col gruppo di Simona Guerzoni. La ricerca dimostra che il fumo di cannabis è correlato con lo pneumotorace spontaneo, ovvero la penetrazione di aria nella cavità pleurica a seguito della rottura di una bolla di enfisema presente sulla superficie del polmone può provocare sintomi respiratori e alterazioni polmonari. Vi annuncio che domani ci sarà la seconda eclissi parziale di luna del 2020, ma ne parleremo a questo punto domani. Per chiudere lo sport, fischio d'inizio il 12 giugno con la prima semifinale di Coppa Italia maschile. È arrivato il via libera del governo all'anticipo di un giorno sulla tabella di marcia e il conto alla rovescia per il calcio si fa sempre più corto. Intanto, mentre si lavora per mettere a punto la migliore formula per ricominciare in sicurezza il campionato maschile, mentre per quello femminile ancora non ci sono le condizioni, la FIGC vara un piano straordinario con un fondo salva calcio per un ammontare complessivo di 21 milioni e 700 mila euro in favore delle categorie inferiori alla Serie A. Direi che qui possiamo chiudere questa copiosa sintesi della giornata per approfondire tra poco alcuni temi con gli ospiti. Per i vostri messaggi, commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. C'è un ascoltatore che dice: in poco più di due mesi siamo tornati indietro di 20 anni. Si chiede a proposito delle dichiarazioni di Conte, ne parleremo a momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie, le principali, ve le ho riassunte nella sintesi della giornata. Roberto Giordano sempre con voi adesso per, insieme agli ospiti, affrontare alcuni temi in particolare. Comincerei dalla scuola, perché intanto è in discussione in Parlamento il decreto scuola che dovrebbe essere approvato tra venerdì e sabato, insomma entro il fine settimana, però è in corso anche un tavolo tra il governo, la ministra Azzolina e i sindacati in vista della riapertura della scuola a settembre. Su questo chiedo aggiornamenti alla nostra Alessandra Schepisi. Ci sono novità, Alessandra? Quali sono poi i temi principali? Sì, ciao Roberta, buonasera. Un lungo confronto nel pomeriggio a Palazzo Chigi che si è concluso poco fa sulla riapertura del nuovo anno scolastico. A settembre tutti in classe, in presenza, ha assicurato il Premier Conte, di fatto allineandosi a quanto già detto dalla Ministra dell'Istruzione Azzolini, aprendo questo tavolo in videoconferenza allargata a tutte le componenti del mondo della scuola, sindacati, associazioni di studenti, di genitori, di disabili, presenti anche gli enti locali. La didattica online è un'opportunità in più, ha detto Conte, ma ora serve tornare a scuola. Dunque l'obiettivo è quello di mettere in sicurezza oltre 8 milioni di studenti, più di 1 milione di docenti. Le linee guida sono state ribadite: mascherine oltre 6 anni, distanze di 1 metro, misure di igiene, spazi da riorganizzare per evitare gli assembramenti. Ma il problema è quello delle risorse, perché su questo i comuni hanno molto insistito, hanno fatto presente al governo una serie di necessità urgenti: lo sblocco dell'assunzione del personale, certezza appunto sulle risorse per gli interventi di edilizia scolastica, riorganizzazione dei servizi, di mense, di trasporto, con un piano che appunto eviti gli assembramenti. Sono tanti ancora i nodi da sciogliere, i sindacati non si sono ritenuti soddisfatti, tant'è che hanno ribadito, hanno confermato il loro sciopero programmato per l'8 giugno, sindacati che appunto, lo ricordiamo, chiedono più soldi e più organico per garantire la riduzione del numero degli alunni per classe. E sul piede di guerra anche le opposizioni, che stanno facendo un duro ostruzionismo sul decreto legge scuola che scade domenica, sul quale oggi è stata votata la fiducia, un provvedimento che contiene regole per la chiusura dell'anno scolastico e le indicazioni per il concorso straordinario per 32.000 docenti precari, e il voto definitivo su questo provvedimento è atteso per sabato. A te Roberta. Grazie Alessandra Schepisi, grazie del tuo intervento, quindi vediamo appunto sabato, poi ci sarà modo di approfondire ulteriormente questo decreto scuola. Intanto una luce che si accende in vista di settembre, speriamo che vada tutto per il meglio, però ancora diciamo con dei nodi da sciogliere per quanto riguarda la scuola nel suo complesso. Da ieri 3 giugno, come sapete, vi ho raccontato, è ripartita la circolazione, la libera circolazione tra le regioni che riaprono i loro confini, un passaggio fondamentale per la ripresa delle attività del paese, anche se abbiamo capito che la strada per la ripresa è lunga e molto difficile. Ieri Conte, intanto Alberto Arioli, vice editore del Sole 24 Ore, ciao Alberto. Buonasera a tutti. Allora, quella che si è aperta ieri, io l'ho chiamata la terza tappa della fase 2, perché la fase 2 dal primo decreto del Presidente del Consiglio era prevista. La prima tappa il 4 maggio con le prime riaperture, poi il 18 maggio, poi il 3 giugno, quindi per me è ancora fase 2. Secondo te è fase 3 o fase 2? No, per carità, non adeguiamoci al linguaggio delle burocrazie, inventando anche noi una burocrazia radiofonica. No, per me è la fase 3 e non vedevo l'ora che accadesse, diciamo la verità. Tu ti lanci in avanti, il cuore oltre l'ostacolo, la fase 3, va bene. non voglio sottilizzare troppo. Beh, la fase 3, però sottilizziamo invece sul resto, perché ieri Conte, certo, in conferenza stampa ha illustrato un piano di rinascita per l'Italia. Ha detto: serve un nuovo inizio, unità per disegnare il futuro del nostro paese. Da un mese i dati sono incoraggianti, avevo fatto sentire quest'audio, aveva detto però bisogna rispettare ovviamente le regole. E ai partiti è arrivata da parte di Conte la richiesta di collaborare alle varie riforme in progetto sul fisco, il diritto allo studio, la velocità di rete, l'utilizzo dei fondi europei, un piano di rilancio da fare con le opposizioni, ha detto Conte, ha annunciato l'uso da parte dell'Italia dei vari strumenti messi in campo dall'Unione Europea, i fondi SURE, BEI, della Banca di Investimenti, e poi ha rinviato al Parlamento la decisione sul tanto diciamo controverso MES, no? da più parti voluto, però dalle opposizioni da sempre contestato, dal stesso Movimento 5 Stelle, insomma, che non apprezza. E Conte ieri ha detto anche: stiamo lavorando a delle anticipazioni rispetto a queste misure dell'Unione Europea, perché anche i famosi recovery fund sembra che non partano da prima del 2021. E proprio oggi la Banca Centrale Europea rilancia il quantitative easing pandemico, cioè gli acquisti di debito, i titoli di Stato dei vari Stati per l'emergenza pandemica. Cosa significa questo, Alberto, in parole molto chiare? Allora, intanto che la BCE ha quasi raddoppiato il suo scudo negli acquisti rispetto a quello che già aveva stanziato in precedenza, che era intorno ai 750 miliardi, e questo significa che ci dà la garanzia che le emissioni del nostro debito pubblico, i famosi bond, i titoli di Stato, continueranno ad essere acquistati in grande quantità dalla BCE, e questo terrà calmi i tassi di interesse, terrà basso spread e non ci costringerà appunto a emettere debito e a pagarci sopra anche interessi troppo elevati, quindi facendo ulteriormente esplodere quindi le nostre esigenze di cassa e quindi il nostro debito. Quindi la BCE ci consentirà di mantenere stabile la situazione finanziaria e il quadro macroeconomico. Per il resto è vero che il governo deve cimentarsi adesso con una serie di misure ponte di erogazione di liquidità a vario titolo, perché in effetti tutti questi annunci che sono stati fatti sui fondi europei che arriveranno e arriveranno e saranno molto cospicui, non sono cose di breve periodo, perché il recovery fund avrà bisogno di un ulteriore negoziato politico. Sappiamo che il Consiglio europeo si riunirà ancora tra qualche settimana e la trattativa non si annuncia per niente semplice. Però Alberto, scusami, proprio su questo sentiamo che cosa aveva detto anche ieri Conte a proposito dice stiamo lavorando alle anticipazioni dei recovery fund. Sentiamo questo passaggio. Per quanto riguarda il problema degli strumenti europei, abbiamo in particolare per il recovery fund, questo è vero, un problema di immediata spendibilità. Noi ci stiamo affrettando, vedete, e già il fatto che lancio questi stati generali dell'economia significa che abbiamo fretta per elaborare il nostro progetto e farci trovare pronti. Però stiamo lavorando, ne ho parlato con la von der Leyen, con la Presidente della Commissione europea, stiamo lavorando per un front loading, cioè per un'anticipazione. Al momento gli strumenti per anticipare sono modesti, quindi stiamo lavorando con la Commissione europea per poter pervenire a delle anticipazioni più consistenti. Alberto, vuoi commentare? Poi c'è un ascoltatore che fa una domanda che giro a te. Ma guarda, la cosa è giusto quello che dice il Premier, perché in effetti rispetto ai più di 100 miliardi che sono l'aspettativa che si è creata sul potenziale che il Recovery Fund potrebbe avere per l'Italia, i realmente anticipabili, secondo le stime che sono state fatte qualche giorno fa, sono poco più di 11. Quindi con i fabbisogni di cassa che ci troviamo adesso, con tutto la panoplia di strumenti che sono stati messi in campo, che hanno bisogno di stare drenando denari continuamente e molti lo faranno ancora nel tempo, 11 miliardi sono ben poca cosa. Alberto, c'è questa domanda di questo ascoltatore che dice: Roberta e Federico, io di economia capisco poco o nulla, dice, per cui mi vergogno un po' a fare questa domanda, non vi vergognate di fare le domande, dice, ma la BCE come fa a comprare tutti questi titoli di Stato? Dove li prende i soldi? I soldi sono quelli che ha al suo interno, chiaramente. È un modo indiretto, come dire, come si direbbe, per stampare denaro, no? Teoricamente. Non è esattamente come stampare denaro, ma si crea un meccanismo autoportante, diciamo, per cui ci sono delle emissioni a fronte di controvalore che viene dato dalla BCE poi agli stati che lo utilizzano come garanzie, eccetera, eccetera. Quindi è un sistema che sta in piedi, chiaramente, come per tutti gli altri stati del mondo. Alberto, poi la cosa importante che ha detto ieri, fra le varie, Conte, è che ha annunciato a breve gli stati generali dell'economia. Risentiamo questo passaggio. Nei prossimi giorni completerò un lavoro che abbiamo già iniziato, perché il comitato socio-economico coordinato da Colau ha già lavorato in questo periodo, è ormai addirittura d'arrivo, mi ha già anticipato alcuni dei progetti a cui ha lavorato, ha raccolto nel confronto con tantissimi stakeholders, tantissime proposte. Avremo gli stati generali dell'economia a Palazzo Chigi, con tutte le migliori forze del paese. Ci confronteremo, raccoglieremo in questo passaggio finale le idee che ci sembrano più utili per poter a questo punto poi rendere pubblico e condividerlo con tutto il paese e l'opinione pubblica questo nostro recovery plan. Alberto, quindi la necessità di riunire tutte le forze e le energie, le idee migliori, diciamo, no, per rilanciare l'economia. Ieri ha parlato anche di personalità brillanti al di fuori, insomma, delle parti sociali, dei sindacati, della politica, eccetera. Tu sei questa tra queste menti brillanti, magari, non so. Sicuro. Modesto. Diciamo, è un po' un eccesso enunciativo, per così dire. C'è sempre un grande effetto annuncio con coreografie studiate e quant'altro. Il problema è che non è la prima volta degli effetti annuncio, perché anche l'altra volta nella presentazione della Task Force di Colau c'è stato un grande effetto annuncio, anche quelli erano i più grandi cervelli più o meno fuggiti e ritornati appunto e convenuti in questo forum telematico, che dovevano chissà che cosa fare, poi non hanno fatto niente. E mi sembra di capire Palazzo Chigi si sta scaricando e li ha sostituiti con questi bei stati generali. L'idea della concertazione, del mobilitare gli interessi del paese, le grandi associazioni, i grandi centri studi va benissimo, è una pratica che conosciamo bene. L'importante è che si facciano davvero le cose. L'elencazione che ha fatto ieri anche il Premier è un catalogo patinato, diciamo, che ben conosciamo, la sostenibilità, l'upgrade tecnologico con il digitale. Ma secondo te, Alberto, scusami, secondo te quante volte ne abbiamo parlato? Ecco. Quante volte tu stessa hai annunciato queste cose in questo momento? Non in conferenza stampa le ho annunciate, però sia chiaro. Alberto, però quello che ti voglio chiedere è il momento, che è molto difficile, perché è stato difficile la chiusura e tutto quanto, però questa, ha detto giustamente Conte, è la sfida più ardua, nel senso, è il momento che è davvero eccezionale per il nostro paese, o anche la classe politica dirigente che potrebbe non essere all'altezza? Come la vedi tu? Ma indubbiamente questo governo è frutto di una maggioranza un po' raffazzonata, che ha al suo interno pulsioni originarie che erano totalmente antitetiche, così come lo era stata la maggioranza precedente. Ci troviamo in una legislatura purtroppo viziata da un peccato d'origine, per cui c'è questo tripolarismo che ha condotto campagne elettorali come se fossero guerre guerreggiate, e adesso si ritrova invece in posizione di alleanza, che rende tutto molto paradossale, ecco. E quindi questo è sicuramente il grande problema che ha Conte nel gestire la leadership, perché nell'annunciare i grandi investimenti infrastrutturali poi deve fare i conti, per esempio, col 5 Stelle, che sono più del 30% dell'attuale Parlamento, e hanno espresso l'attuale Premier che non vogliono la TAV, che non vogliono finanziamento, che non vogliono raddoppiare le autostrade, quindi insomma, sai, è un conto è parlarne, è un conto poi mettere in pratica. Sono una maggioranza molto rissosa. Alberto, allora fammi dire solo una cosa, sembrerò proprio provinciale, ma oggi mi ha molto colpito il fatto che dopo 21 ore di trattativa, anche feroce, forte, le tre forze della grande coalizione tedesca hanno messo in campo un piano strategico riassunto in una quindicina di cartelle, dove mobilitano 130 miliardi di euro, dopo averne mobilitati 800 di garanzie e 350 di denaro fresco che è servito a tamponare la liquidità e la crisi nel mese scorso. Ebbene, ecco, lo hanno fatto appunto con 21 ore di trattativa, si sono assunti una responsabilità politica, forse anche che non sempre dialogavano con tranquillità tra di loro, però quella è leadership politica, non hanno avuto bisogno di task force, forse le avevano come consulenti normali, non hanno solennizzato gli stati generali citando la rivoluzione francese, magari pure la pallacorda, che ne so. Ecco, hanno semplicemente agito anche molto rapidamente, perché il fattore tempo in una condizione del genere, certo, è davvero cruciale, importante. Fondamentale. E anche i due decreti precedenti, che erano stati annunciati con grande corsa, eccetera, purtroppo non hanno dispiegato gli effetti, perché il decreto liquidità non, ancora non riesce a dispiegare tutti gli effetti sui prestiti che dovrebbe, che aveva invece promesso, per esempio. Senti Alberto, oggi naturalmente reazioni dall'opposizione, Meloni, presidente dei Fratelli d'Italia, che ha detto sulla disponibilità del governo a parlare con l'opposizione, sono solo parole perché noi abbiamo fatto le nostre proposte e non sono state accettate. Tajani di Forza Italia ha detto alle parole di Conte seguono i fatti, e Zingaretti ha detto ci vuole un clima di concordia nazionale. Farei sentire Zingaretti, segretario del PD. C'è bisogno di quella che io chiamo, e non solo io per fortuna, una concordia nazionale, che non sono inciuci di palazzo, ma la capacità di discutere. Senti Alberto, per chiudere, ti sembra che ci sia un po' già un clima d'odio, a parte le insofferenze, la paura della crisi, di non farcela, di non avere prospettive, ma proprio un clima un po' di odio sociale? Hai visto che nelle ultime settimane hanno dovuto mettere la scorta al ministro, vice ministro della salute Sileri, alla ministra dell'istruzione Azzolina, oggi anche Fontana, presidente della regione Lombardia, ha depositato il suo legale un dossier in procura di 30 pagine di minacce. Così in sintesi, come commenteresti questo clima? Sì, penso che ci siano questi semi dell'odio che stanno gemmando, purtroppo erano stagioni che pensavamo di aver superato, invece tornano fuori vecchie sigle, vecchi slogan, e viene fuori un brodo di coltura per gente emarginata che cerca solo scontri sociali per ritrovare delle legittimazioni, e questo è davvero molto pericoloso, però questo avviene nel momento in cui hai una carenza di leadership, in cui la politica non riesce appunto a trovare quello spirito di concordia sulle cose fattive e non sugli slogan o sulle parole chiave anche volgari, perché appunto concordia, giustamente Zingaretti dice, non è un inciucio. Ma chi ha continuato a qualificare inciucio qualunque modalità di dialogo tra forze anche diverse che trovassero forme civili di confronto? I 5 Stelle, tanto per dirne uno, ma anche la Lega. Ecco, è quel tipo di proposta e di offerta politica così estremizzante che ha un po' inquinato i pozzi e rende tutto molto più complicato in questa fase adesso nel ritrovare un linguaggio, una prova istituzionale, delle forme per consentire lo scorrere normale della discussione pubblica e del dibattito politico. Nella stessa direzione. Grazie caro Alberto Rioli. È molto pericoloso, lasciamelo ridire un'altra volta. Grazie Alberto, vice direttore del Sole 24 Ore, buon lavoro. Ciao Alberto. Grazie a voi. Ci prendiamo una piccola pausa di riflessione, di respiro, voi continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure WhatsApp al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi se volete la giusta conduttrice Roberta Giordano, che vi accompagna sempre dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 attraverso le notizie più importanti della giornata dall'Italia e dall'estero, e poi insieme agli ospiti ci addentriamo in alcuni argomenti per scandagliarli, comprenderli meglio, raccontare anche delle storie, delle situazioni. Allora abbiamo parlato appunto questo piano di rinascita del Presidente del Consiglio Conte annunciato ieri, sul quale nuovamente è tornato oggi, le misure della Banca Centrale Europea, i vostri messaggi. Claudio che dice, ma se uno non ha i soldi come fa a fare tutto e subito, tutti maghi, dice a proposito delle critiche nei confronti di questo governo. Ma diciamo, fra le tante cose, siamo ormai a giugno, è tempo di vacanze, che sono una necessità per tutti, per chi si può permettere, per chi no, dopo anche questo periodo così pesante, e poi anche c'è il bisogno, a proposito di crisi, di misure economiche, di un rilancio del settore del turismo molto provato da questa crisi. Oggi sono state ratificate le regole dell'ISSI, dell'Istituto Superiore di Sanità, per le spiagge, per bagni sicuri. I bagni al mare si possono fare senza rischi di contagio, questo è già detto, è stato detto diverse volte, perché nel mare si diluisce il virus, quindi scompare, però sempre a distanza gli uni dagli altri, anche in mare distanza di un metro. I bagnanti dovranno portare la mascherina quando il distanziamento è difficile da mantenere. Per avere accesso agli stabilimenti sarà misurata la temperatura a ospiti e personale. Quindi in spiaggia, vedo altre regole, restano vietati gli assembramenti, le feste e gli eventi musicali, se non solo di ascolto. Gli accessi agli stabilimenti attrezzati prevedono la prenotazione, mentre per le spiagge libere, dove la sorveglianza risulta di difficile praticabilità, sono chiamati i sindaci e gli altri enti locali competenti ad applicare le forme di riduzione del rischio. E qui proprio entrano in nell'occhio, nel mirino proprio i sindaci, i quali invece hanno espresso diverse dichiarazioni di scontento a questo proposito. E quindi, per parlare di cosa in questo momento avvertono i sindaci rispetto a questa situazione, chiamo in causa il presidente dei sindaci, che è Antonio De Caro, quindi presidente dell'ANCI, nonché sindaco di Bari. De Caro, buonasera, grazie della disponibilità. Buonasera a voi. Quindi ha sentito quali sono le regole dettate dall'Istituto Superiore di Sanità. Lei ha detto, da parte appunto portavoce degli altri sindaci, che vi sentite un po' abbandonate e caricati di un po' di troppe responsabilità? Io ho detto che l'Istituto Superiore di Sanità non si può permettere di dire che sono i sindaci che devono andare a fare i controlli sulle spiagge. Abbiamo subito le decisioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiamo subito le decisioni delle ordinanze dei presidenti delle regioni, avendo fatto una scelta all'inizio che era quella di cedere il nostro potere di autorità sanitaria locale per affrontare in maniera coordinata il contrasto al Covid-19. Di certo non può essere un documento tecnico dell'Istituto Superiore della Sanità a dire che i controlli li fanno i sindaci, quando il DPCM invece chiarisce che i controlli li fanno le forze dell'ordine. Allora, noi non vogliamo essere né gli esecutori di indicazioni che arrivano da una parte del paese che sembra lontana dalla vita reale, nemmeno i persuasori del rispetto di regole che vengono decise da qualche altra parte. Arriva un momento in cui i sindaci dicono basta, nel senso che non si possono individuare delle regole che non si possono rispettare e si scarica sulla responsabilità dei sindaci il controllo. Quindi mi sono permesso di invitare il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità a venire a fare un sopralluogo con me in una delle spiagge della mia città. Ho 42 chilometri di spiaggia, faccio l'ingegnere nella vita, o meglio facevo l'ingegnere, quindi il metro lo porto io, e insieme misureremo la distanza tra il giocatore di racchettoni sulla spiaggia dal, non so, costruttore dei castelli di sabbia, oppure verificheremo la distanza di 1,50 m tra una persona sdraiata su un lettino e uno che è sdraiato su una sedia o su un telomare. Facciamo queste verifiche insieme e vediamo se è possibile, per un sindaco senza risorse, senza personale, se è possibile fare i controlli sulle spiagge, soprattutto quando le spiagge sono numerose in una città. Senta De Caro, ma quindi rispetto a questo appello che lei ha rivolto al presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, che cosa le ha risposto? Le ha dato una risposta o aspetta, insomma, le prossime ore? Non mi ha risposto. Di certo l'Istituto Superiore di Sanità non si può permettere di dire chi deve fare i controlli. Lo può decidere una norma, lo può decidere un'ordinanza, di certo non lo può decidere un documento tecnico fatto da tecnici. I tecnici fanno i tecnici, noi abbiamo sempre rispettato, non ci siamo mai lamentati delle indicazioni che sono arrivate. Le distanze sono 1 metro, facciamo rispettare tutti insieme 1 metro, sono 1,50 m, accettiamo 1,50 m, ma non accetto che un comitato di tecnici debba decidere chi deve fare i controlli sulle spiagge, non tocca a loro. Senta, mi ricordo nei giorni scorsi si è parlato di assistenti civici che erano anche, diciamo, un po' nelle sue corde insieme al ministro degli affari regionali Boccia, che poi dopo però hanno cambiato un po' ruolo. Potevano essere utili? Non ne abbiamo mai chiamati assistenti civici, noi li abbiamo chiamati volontari, abbiamo chiesto volontari, l'abbiamo fatto oltre un mese fa, parliamo del periodo del 4 maggio, perché il numero dei volontari delle nostre città diminuiva, e diminuiva perché le persone tornavano a lavorare, il volontario ovviamente se ha un lavoro va a fare il suo lavoro e diminuiscono le ore di tempo che aveva a disposizione. Per fare un esempio, nella mia città c'erano 700 volontari, erano diventati 250, noi chiedevamo in sede ufficiale, in cabina di regia alle regioni, attraverso le protezioni civili regionali, di mandarci più volontari. Il governo 2 giorni dopo ci ha chiamato e ha detto i volontari li individuiamo noi attraverso un bando della Protezione Civile Nazionale, poi attraverso le regioni le mandiamo ai sindaci. Noi abbiamo detto va bene, poi è nata una polemica perché sembrava che questi assistenti civici dovessero seguire la Movida. La Movida un mese fa non c'era perché non erano aperti i locali. I locali dovevano aprire il 1 giugno. Il 4 maggio, quando in cabina di regia abbiamo chiesto i volontari, che sono a verbale, quindi c'è scritto che abbiamo chiesto i volontari e per noi erano volontari. I volontari ci possono aiutare a fare quello che hanno sempre fatto i volontari in questi mesi, cioè accompagnare le persone a fare delle visite, portare la spesa a casa, portare i medicinali dalla farmacia a casa di tante famiglie in difficoltà. Ci hanno aiutato anche, continuano ad aiutarci a contare per esempio il numero delle persone che entrano all'interno di un mercato o all'interno di un parco, perché se il numero delle persone va contingentato nei parchi chiusi dove c'è un cancello o nei mercati dove c'è un cancello, i volontari ci hanno sempre aiutato con le associazioni di volontariato a contingentare gli ingressi. Ma quindi non saranno utilizzabili sulle spiagge per esempio, vista la vostra difficoltà? Chi va, come già la vedo difficile per le forze dell'ordine andare in una spiaggia affollata e dire che devono mantenere la distanza, di certo non lo possono fare i volontari. Possono dare delle indicazioni, le associazioni di volontariato possono dare all'ingresso delle indicazioni, anche perché le distanze sono diverse, c'è la distanza tra le persone di un metro, la distanza tra i lettini o le sdraio deve essere di 1,50 m e i metri quadri occupati da un ombrellone devono essere 10 metri quadri. In alcune regioni sono stabilite invece le larghezze, le dimensioni di questi 10 metri quadri, per esempio nella mia regione sono 3 metri per 3,30 metri. Quindi che cosa ne sarà insomma delle spiagge, del controllo sulle spiagge quest'estate, sindaco Di Caro? Se dobbiamo fare i controlli li facciamo con le forze dell'ordine, come c'è scritto su tutti i DPCM. Di certo i sindaci non hanno né le risorse umane né le risorse economiche per poter fare i controlli sulle spiagge. Non si possono individuare delle regole e poi scaricare diciamo a chi sta sul territorio il controllo. Noi non abbiamo le risorse, ci stiamo lamentando del fatto che tra qualche mese, se non arrivano le risorse, che devo dire onestamente il Presidente del Consiglio ci ha assicurato, noi rischiamo di interrompere i servizi essenziali come il trasporto pubblico, la raccolta di rifiuti, la pubblica illuminazione. Chiaro, sì, ne abbiamo parlato in queste settimane anche col sindaco Nardella, anche De Magistris, anche con lei in passato. Senta, quindi lei se giocherà a racchettoni sulla spiaggia sarà a distanza debita comunque, sindaco De Caro? Tutti abbiamo l'obbligo di stare a 1 metro di distanza e quindi dobbiamo rispettare quel metro di distanza, ma l'appello va fatto alla responsabilità personale di ciascuno di noi. Certo. Come si fa in una spiaggia ad andare a misurare la distanza tra le persone? Bene. Le persone che vanno sulla spiaggia devono sapere che anche quando stanno su strada, stanno sulla spiaggia o stanno in fila davanti a un supermercato devono stare a 1 metro di distanza. E anche se non è obbligatorio nella maggior parte delle nostre regioni, se è possibile utilizzare la mascherina quando ci sono altre persone vicino, anche se stanno a 1 metro. Se si sta da soli sulla spiaggia, per strada o davanti a un supermercato, la mascherina non è obbligatoria e non è nemmeno opportuno utilizzarla. Se ci sono altre persone che si avvicinano o si incrociano altre persone, utilizzare la mascherina non guasta, anche se non è obbligatorio. Chiarissimo. Questo dobbiamo spiegare alle persone, agli italiani. Dire i sindaci vanno a controllare sembra complicato. È stato chiarissimo. Grazie sindaco Antonio De Caro e buona continuazione e buon lavoro. Grazie allora. Voi, anche per quest'estate. Grazie. C'è la viabilità tra pochissimo. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Proseguiamo allora con le notizie con gli ospiti, Roberto Giordano sempre con voi. Ricordate che nella puntata di ieri vi ho parlato delle onorificenze concesse dal presidente Mattarella, il quale appunto ieri ha nominato 57 cavalieri della Repubblica, un primo gruppo di cittadini che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l'emergenza di coronavirus, perché come ormai risaputo ci sono state tante persone, no, e delle intere categorie che in modi diversi, dicevo, hanno dato battaglia al virus, come medici, infermieri, operatori sanitari, tante categorie che hanno permesso di assicurare i servizi essenziali, dalle cassiere, agli addetti alle pulizie, ai trasportatori, ai volontari, tanti volontari. Tra queste persone che rappresentano il volto migliore dell'Italia. Si faceva l'esempio tra i cavalieri appunto dell'infermiera di Cremona, fotosimbolo di lei stremata sulla scrivania che dormiva, il rider che ha comprato delle mascherine per la Croce Rossa, le dottoresse che per prime tra Lodi e Codogno hanno curato il paziente numero uno in Italia, fino alla preside dello Zen di Palermo. E cavaliere al merito della Repubblica è diventata anche Maria Rosaria Capobianchi, che ieri è stata ospite appunto qui a Effettonotte, a capo del team di ricercatori dello Spallanzani di Roma, che ha contribuito a isolare il coronavirus. Ma a coloro, donne e uomini, che sono stati definiti per tutto il periodo più pesante del coronavirus i nostri eroi, cioè medici, infermieri, donne e uomini, medici e infermieri, quali riconoscimenti hanno ricevuto in una piccola panoramica generale? Diciamo, per esempio, in Veneto un premio di 1.200 euro a medici e infermieri impegnati durante l'emergenza, al quale si aggiungono le indennità economiche contrattualmente previste. In Puglia un bonus premio calcolato sui giorni di presenza, da un minimo di 400 euro a un massimo di 2.520 euro lordi. In Lombardia sono stati stanziati 123 milioni destinati appunto a chi ha lavorato, si è adoperato nei reparti Covid-19, nelle corsie di ospedale. Il denaro dovrebbe arrivare ora con la busta paga di giugno, ma poiché è tempo di vacanze, ne parlavamo prima col presidente dell'ANCI De Caro, chi è che ha più bisogno di vacanze se non proprio medici e infermieri, che sono stati in primissima linea con turni massacranti, con un enorme carico di lavoro, sotto una tremenda pressione psicologica? E quindi la regione Emilia-Romagna ha deciso di offrire una settimana di vacanza gratis in Emilia-Romagna, quindi dall'Appennino alla Riviera, a medici e infermieri che sono arrivati volontari in Emilia-Romagna da ogni parte d'Italia. Allora, su questo coinvolgo immediatamente il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che saluto. Grazie della sua presenza. Buonasera, buonasera. Quindi questo è stato il vostro senso, diciamo, segno di gratitudine nei confronti di questi medici e infermieri. Lei non l'ha citato prima, ma noi siamo stati la prima regione, già parecchie settimane fa, a destinare quasi 70 milioni di euro a tutto il personale sanitario della sanità pubblica della nostra regione, estendendola anche ad alcuni ospedali il cui personale è misto pubblico-privato, estendendolo anche agli specializzandi, estendendolo anche agli universitari, estendendolo anche alle associazioni di volontari, che non potendolo dare ai volontari, Croce Rosso Pubblica Assistenza, lo daremo perché possano fare corsi di formazione pagati dalla regione per i loro volontari. Noi avevamo già fatto da tempo tutto questo, allora ci siamo detti perché non dare un premio, un riconoscimento a circa 200 medici e infermieri, come lei molto bene ricordava, hanno abbandonato le loro case, le loro famiglie, i loro cari, e hanno deciso di venire in una delle realtà, peraltro che era tra le più colpite, oggi per fortuna non più, dal coronavirus. E quindi noi vogliamo ringraziarli con un gesto simbolico, e per da qui alla prossima estate avranno un anno di tempo, ognuno di loro con un proprio caro, una propria cara, o chi vorranno, per due persone, potranno venire in qualsiasi località dell'Emilia Romagna. Abbiamo fatto un accordo, e ringrazio tantissimo la sensibilità di Federalberghi e Assotel, le due associazioni degli albergatori, e potranno soggiornare una settimana gratis, vitto alloggio, nella nostra terra, perché noi siamo una terra che solitamente va sempre ad aiutare gli altri, spesso arriva anche prima, ma noi vogliamo sempre essere grati a coloro che ci sono venuti o ci vengono a dare una mano in un momento di grande difficoltà, e questo è il cuore che abbiamo voluto vedere. Oggi peraltro, se vuole, le do un'altra notizia. Sì. Noi oggi abbiamo inaugurato a Rimini col ministro Boccia, e domani lo faremo con un sopralluogo il ministro Speranza in alcuni ospedali, 5 strutture ospedaliere domani, 2 di Bologna, 2 di Modena e 1 di Parma, oggi era quella all'ospedale Infermi di Rimini. Noi ormai abbiamo terminato, primi in Italia, il cosiddetto Hub Covid Hospital, che saranno 145 posti letto di terapia intensiva distribuite su 6 strutture ospedaliere di 4 città, e poi ne faremo altre più avanti in altre città, che saranno per sempre. Potranno ricoverati gravi in terapia intensiva oggi e domani, e lo potranno fare in caso di ritorno di epidemie, ci auguriamo di no, per gli emiliano romagnoli, ma anche per qualsiasi cittadino che vive in questo paese. Noi abbiamo scelto non strutture faraoniche, lontano dagli ospedali, noi abbiamo scelto di farli dentro o a fianco degli ospedali, per avere tutte le attrezzature e il personale disponibile, 26 milioni di euro, dei quali gran parte arrivati dal governo, con anche 5 milioni di euro di donazioni tra le tantissime donazioni che abbiamo ricevuto. Quindi vi state predisponendo già, insomma, capendo quello che è successo finora, per non farsi trovare ancora diciamo impreparati o in difficoltà, vi state portando avanti. Insomma, speriamo che non debba succedere nulla, però abbiamo capito che cicli e ricicli. Questo è un rafforzamento per sempre dei posti letto di terapia intensiva, perché in questo paese non ce n'erano a sufficienza come in altri paesi. Noi siamo stati la seconda regione più colpita, sì, e non abbiamo mai dovuto chiedere ad altre regioni di prendere i nostri ricoverati, anzi ne abbiamo preso qualcuno da altre regioni. Avevamo triplicato i posti letto di terapia intensiva, ma dalle tragedie bisogna imparare. Certo. E noi adesso facciamo reparti che sono completamente isolati dal resto degli altri reparti degli ospedali o a fianco degli stessi ospedali, ma con un investimento a tempo di record in poche settimane per strutture che funzioneranno da subito e lo saranno per sempre. Per chiudere vedo una dichiarazione della sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, che dice che l'Emilia Romagna ha dato un bel esempio di come si possano concretamente ringraziare medici e infermieri messi a dura prova dalla battaglia anti-Covid. Quindi buona vacanza ai 133 infermieri, 61 medici in Emilia Romagna che sono arrivati volontari, grazie, potranno avere vitto alloggio. Grazie a lei, grazie a lei Presidente Bonaccini, grazie e buona continuazione. Torno ratta con la Folgore, no, ci siamo già, c'è già il collegamento con gli Stati Uniti, molto bene, il nostro Marco Valsania, ciao Marco. Ciao, buonasera. Marco, allora ci sono state oggi, non so se sono ancora in corso, visto il fuso orario, i funerali di George Floyd, l'afroamericano di 46 anni, ucciso, praticamente soffocato da un poliziotto con la complicità di altri tre che sono stati arrestati, ne davamo notizia proprio ieri sera in diretta. Migliaia di persone sono arrivate a Minneapolis, Marco, per questa commemorazione funebre. Sì, esatto, è stato un po' l'avvio di una commemorazione che durerà giorni e anche avrà luogo in diverse città americane, ma appunto la principale, quella più forte, più densa di partecipazione e contenuti, sicuramente quella a Minneapolis. Tra l'altro trasmessa dalle principali TV americane, no? CNN, Fox News, vedevo. Trasmessa in diretta, tuttora in corso. Il discorso diciamo centrale del reverendo Al Sharpton, un discorso a toni forti, in cui il simbolo della morte, dell'uccisione di Floyd è stato reso con le parole, appunto col ginocchio, con la frase il ginocchio sul collo, ecco, ma Sharpton ha fatto appello, è il momento, è la stagione, è il tempo per togliere il ginocchio dal collo delle minoranze etniche, degli afroamericani. Questo in senso simbolico, forte senso simbolico, però Marco, esatto. Mi sembra che il Senato stia proponendo americano di vietare questa modalità di bloccaggio, insomma, delle persone da parte della polizia. Ci sono sicuramente in corso sforzi, ci sono sforzi per riformare la polizia, però sono sforzi diciamo che ripetutamente negli anni hanno avuto poca fortuna le pratiche della polizia, anche perché molte sono poi diciamo così legate anche alla cultura delle varie forze di polizia locali, diciamo dei vari stati. È auspicabile, sicuramente questo è l'auspicio diciamo politico del Congresso americano, che questo tipo di pratiche vengano messe diciamo al bando ufficialmente, queste come altre pratiche che possono essere appunto estremamente poi la cosa forte che dicevamo ieri ma anche oggi, Marco, è che il presidente il capo del Pentagono, quindi il ministro della difesa, ha preso le distanze da Trump, e così anche l'ex segretario della difesa James Mattis, no, che ha detto che Trump tende a disunire, a dividere il paese invece che a unirci. Assolutamente, ed è un segnale importante di sconfessione dell'establishment militare, un rapporto difficile quello tra Trump e l'establishment militare, che tende a diciamo a parlare poco, ma di cui si sa il disagio, si conosce il disagio nei confronti di Trump. Chiaro. È uscito allo scoperto questo disagio con le dichiarazioni che dicevi tu. Ci dobbiamo lasciare purtroppo, grazie Marco Valsani da New York, ciao Marco. Grazie a voi. A tra poco.